Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono. Siamo a mercoledì 28 febbraio 2024 e state ascoltando Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì alle 10.30 vi propone un paio di ore di musica live, naturalmente su Radio Città Fujiko da Bologna, 103.1 MHz, nonché il web, dove potete ascoltarci scaricando l'apposita app che troverete sul sito a gratis. E come sempre Città Fujiko Live Club inizia con una novità che oggi è appannaggio di una band non molto conosciuta in Italia, diciamo che anche negli Stati Uniti non è che spopoli, ma che è attiva fin dal 1991, quindi tantissimi anni fa, e che per lungo tempo ha avuto la stessa formazione. Poi dopo nel 2003 alcuni di loro se ne sono andati, un paio di loro se ne sono andati perché era un trio, così è rimasto solo Art Alexakis, il cantante chitarrista, è rimasto lui il leader e l'unico membro originale. Poi da allora si è circondato di musicisti diversi in ogni occasione in pratica. La band del quale sto parlando si chiama Everclear, una band che ha un certo successo sotterraneo anche negli Stati Uniti, diciamo così. Art Alexakis, fra parentesi, ha avuto un sacco di problemi giovanili, diciamo così, dovuti a, fra virgolette, i soliti problemi di droga ed alcol che lo portarono anche in prigione per qualche tempo, ma poi tramite la musica, come tanti altri, si è rimesso in sesto. Hanno avuto un buon successo, quel po' che hanno avuto negli anni 90, e però appunto da allora sono diventati più o meno la Art Alexakis Band, anche se lui continua ad andare avanti con il nome Everclear. Malgrado siano attivi dal 1991, l'album che vi propongo oggi, che si chiama Live the Whiskey a Go Go, è il loro primo intero album live, anche se poi hanno costellato la loro discografia di registrazioni live. Ci sono anche riedizioni di loro album con annesse registrazioni live e diverse singoli o EPs con appunto live annessi. E questo, come dicevo, è il primo album che è stato registrato in questo storico locale di Los Angeles, del quale parleremo dopo. È stato registrato il primo dicembre del 2022 e ci andiamo subito ad ascoltare questi Everclear. Il pezzo che ho scelto per iniziare si chiama Wonderful. Who's got children? Come on, who's got children? Aren't kids the best? Sometimes aren't kids the fucking worst? Yeah. Who's got teenagers? That's a special kind of hell right there, isn't it? Not all of them. This one's cool. She likes Everclear. Give it up for this one, man. My daughter likes Everclear too. She's 15. She couldn't be here tonight because she's sick like everybody else's kid right now. I know. But you know what? This song goes out to all our kids, your kids, my kids, and the kids inside of us. This is called Wonderful. Come on, we need those helping hands. Here we go. door. I wish I could count to ten, make everything be wonderful again. Hope my mom, hope my dad, figure out why they get so mad. Hear them scream, hear them fight, say bad words that make me wanna cry. Close my eyes when I go to bed and I dream of bitches that make me smile. I feel better when I hear them say everything will be wonderful someday. Promises mean everything. My friends won't know. When the bell rings, I just don't wanna go. Go to my room, close my eyes. Make believe that I have a new life. Don't believe you when you say everything will be wonderful someday. Promises mean everything. When you're little and the world so big, yeah, just don't understand how you can smile. Vi ho lasciato anche la dedica iniziale, quella ai bambini, ai ragazzi e ai figli di tutti i presenti al Whisky Go Go quella sera del 1° dicembre 2022. Everclear, la band che vi propongo quest'oggi col suo nuovo album che si chiama Live the Whisky Go Go, registrato appunto nell'omonimo locale di Los Angeles. È uno dei locali storici della città, che è attivo veramente da tantissimi anni. È stato aperto nel 1964, per la cronaca, se volete andarlo a trovare, si trova, per meglio dire, all'8901 di Sunset Boulevard, che lo sapete meglio di me, un boulevard che sarà credo 50 km di lunghezza più o meno, e sito appunto West Hollywood, ed è un locale in cui hanno suonato praticamente tutti i migliori artisti e tutti i migliori gruppi di tutti i tempi, a cominciare dagli Humble Pie, che adesso ci andiamo a sentire. Non prima aveva detto però che il Whisky a Go Go ha una capacità di solamente 500 persone, per cui succede spesso, anzi quasi sempre, che gli artisti facciano più di una serata in quel locale, come è successo appunto agli Humble Pie, è di loro che ci andremo ad ascoltare adesso un brano, che nel 1969 suonarono dal 3 al 6 dicembre. E tutto fu registrato, e nel 2001 fu pubblicato un album che si chiama semplicemente Live at the Whisky a Go Go 69. Gli Humble Pie erano un super gruppo britannico che vedeva in azione Steve Marriott e Peter Frampton, accompagnato da una sezione ritmica, e erano molto conosciuti all'epoca e facevano delle cose veramente molto molto interessanti. Il nome Humble Pie gira tuttora, anche se a dire il vero non credo ci siano più elementi originali, e poi ci sono state anche delle diatribe legali per il fatto di usare il nome Humble Pie quando magari non si poteva, ma questa è una cosa che non interessa, a noi interessa la musica, e questo Humble Pie Live the Whisky a Go Go 69, come quasi tutti gli album live degli Humble Pie, hanno un problema, sono tutti brani molto molto molto lunghi, per cui bisogna andare a beccare proprio quelli più corti. Abbiamo un brano che dura 21 minuti, mi sembra che non sia il caso di farvelo ascoltare. Vi faccio ascoltare invece questa cover di un brano di Ray Charles che gli Humble Pie hanno sempre eseguito dal vivo, si chiama Hallelujah, I Love Her So. Humble Pie, era il 1969 al Whisky a Go Go. Let it roll. Abbiamo volutamente iniziato questa piccola rassegna dedicata a registrazioni effettuate al Whisky Go Go di Los Angeles con le due cose più antiche, prima gli Humble Pie dal 1969 e poi questi Brian Ugers Oblivion Express dal 1974. Brian Auger è stato per lungo tempo il top del tastierismo, scusate questo brutto nome, del tastierismo mondiale. Purtroppo adesso mi sembra che sia caduto molto nel dimenticatoio e pochi si ricordano di lui, però è stato veramente un grande e con i suoi Oblivion Express ha attraversato decadi di ottima musica. Questo album, che risponde al nome di Live Oblivion, è uscito in due numeri, diciamo così, il primo nel 1974 e il secondo, Live Oblivion 2, nel 1976, mentre i due doppi vinili sono stati poi riuniti in un doppio CD che è stato edito nel 2010. Il tutto è stato registrato dal 10 al 13 aprile del 1974, per il motivo che vi dicevo prima, essendo molto piccolo il Whisky Go Go, le serate erano multiple e il pezzo che ci siamo ascoltati, dicevo, si chiama Truth. Continuiamo con band britanniche registrate in quel di Los Angeles. Questa penso sia abbastanza sconosciuta. Si chiamavano This Picture. Furono attivi dal 1989 al 1995 con solo un paio di album e alcuni singoli, fra cui questo che ho tra le mani, che si chiama High Rise e che contiene un brano che si chiama Naked Rain. Loro invece si chiamavano These Pictures. I see a bob up and down. The gates are open, my eyes are wide. Burning the candle that keeps me alive. Going blind. Going blind. The world is cold. Cold, cold murder. So bring it back to me. Bring it back to me and take me in. She is cool. flesh of a body, I swear to God, hadn't spoken. So bring it back to me, bring it back to me, and take me in. So bring it back to me, bring it back to me, your lips move me, your eyes move me, colder than you lay in your arms, hold me, your body folds me deeper again. Run with me, colder than rain, rain, rain. Run with me, colder than the rain. Run with me, colder than rain. Okay, good evening, Los Angeles. Welcome. I want to introduce you now to the first American tour. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Fountainhead. Oh, Venivano dall'Irlanda questi Fountainhead che ci siamo ascoltati in un brano che si chiama Sometimes. Loro sono stati attivi dal 1982 al 1990, hanno fatto solamente un paio di album e alcuni singoli, fra cui questo 12 pollici in vinile che sono tre brani interamente registrati dal vivo in quel del Whiskey A Go Go. Era un martedì, il 9 dicembre del 1986. Il brano, lo ripeto, si chiama Sometimes e concludeva questa prima parte dedicata a gruppi non americani, e adesso andiamo invece subito o quasi con gruppi autoctoni, anzi uno addirittura, il primo che arriva è da Santa Barbara, California. E quindi a due passi, diciamo, da Los Angeles, e loro si chiamano, non un po' strano, si chiama Toad the Wet Sprocket. È un quartetto, è stato attivo dal 1986 al 1998, poi ci hanno ripensato e nel 2010 si sono riformati e sono attivi tuttora in giro per gli Stati Uniti soprattutto, ma il loro successo più forte, diciamo, è stato nei primi anni 90 negli Stati Uniti. Hanno fatto diversi album live e diversi EP dal vivo, tutti gli ultimi soprattutto sono stati autoprodotti, fra cui anche questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Five Live. Tutto è stato registrato il 19 dicembre del 1991, lo ripeto, loro si chiamano Toad the Wet Sprocket, il brano invece si chiama Little Girl. Ah, Si formarono nel 1973, sono tuttora vivi e vegeti in una città che si chiama Topeka, in quel del Kansas, Stati Uniti, e senza molta originalità decisero di chiamarsi Kansas, una delle più conosciute band americane in tutto il mondo, soprattutto grazie a questo brano e a questo album che si chiamava Point of No Return. Ma poi ce ne sta Dust in the Wind, c'è Carry On Wayward Son, ce ne sono diversi altri che sono molto molto conosciuti. Loro hanno avuto un po' di problemi, naturalmente i soliti, naturalmente fra virgolette, ma anche i soliti fra virgolette, e infatti il cantante, che si chiama Steve Walsh, ha avuto un po' di problemi per abuso di sostanze stupefacenti. L'album che ci siamo ascoltati si chiama Live the Whiskey, molto anche questo originale, è stato registrato il 5 aprile del 1992, è uno degli album che non hanno avuto quel grande successo che hanno avuto gli altri. C'è un doppio vinile live che si chiama Two for the Show, che è stato vendutissimo, mentre questo Live the Whiskey è considerato un album minore nella discografia dei Kansas. Il brano, lo ripeto, si chiama Point of No Return. Andiamo a concludere questa forzatamente piccola rassegna di brani registrati al Whiskey Go Go. Ci sarebbero ancora tantissime cose, Plim Soul, Soundgarden, Otis Redding, Dogs d'Amour e tanti e tanti e tanti altri, ma voglio finire alla grandissima con uno dei miei brani preferiti in assoluto e con uno dei miei personaggi preferiti in assoluto. Lui si chiamava David Crosby, credo che, spero, non abbia bisogno di presentazioni. È stato un must nella musica rock, non solamente americana, prima con i Birds, poi con Crosby, Stills, Nash & Young, e poi da solo, e poi eccetera eccetera con i CPR. E qui abbiamo un album che è stato registrato al Whiskey a Go Go, che si chiama It's All Coming Back to Me Now, sta tutto tornando a me adesso, più o meno la traduzione è molto maccheronica, e comprende, come dicevo, uno dei miei brani preferiti, che è quello che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Almost Cut My Hair. Sentite una voce che è conosciuta in questa trasmissione, infatti la seconda voce che sentirete oltre a quella di David Crosby è quella di Chris Robinson, che è il cantante dei Black Crowes, Black Crowes che saranno in Italia prossimamente. Cercavo di ricordare la data, credo sia il 17 maggio se ricordo bene, in quel di Milano agli Arcimboldi, e quindi un concerto assolutamente da non perdere. Ma qui l'attore principale, diciamo così, è David Crosby con la sua magnifica Almost Cut My Hair. apart. Oh, I tell ya, baby, this increases my paranoia. Yeah, I like looking in my mirror and seeing a police car. One more song for you guys. This is called Santa Monica. I am still living with your lonely, dreaming of the West Coast. You guys sing it. I don't wanna be your. Big black boots and an old suitcase. Do believe I find myself a new place. I don't wanna be the bad guy. I don't wanna do your sleepwalk dance anymore. I just wanna see some palm tree. Go away. Beside the ocean. E qui parte l'altra canzone, ma a noi interessava questa che vi ho fatto ascoltare, che come ha presentato lo stesso Art Alexakis, si chiama Santa Monica, come la città, che è una delle tante città che formano quell'immenso agglomerato urbano che è Los Angeles. Siamo nella seconda parte di Città Fujiko Life Club di oggi, ultimo mercoledì di febbraio 2024, esattamente il 28, e la novità che vi propongo quest'oggi è iniziato come sempre la seconda parte, Live at the Whiskey Go Go, da parte di questi Everclear, che sono una band attiva ormai da tanti anni, sotto la guida di Art Alexakis, cantante e chitarrista. Come sentite, un album a tratti veramente aggressivo, diciamo così. Il tutto è stato registrato il primo dicembre del 2022. Live di Whiskey Go Go Everclear, novità che vi propongo quest'oggi. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Oggi tantissime cose, per cui bando alle ciance e andiamo subito con una registrazione del 1964. È il primo Festival Rhythm and Blues in Gran Bretagna, The First Rhythm and Blues Festival in Great Britain. Così è stato denominato questo festival, appunto, che si svolse il 28 febbraio del 1964 in quel di Birmingham, UK. Partecipavano a questo festival fior di musicisti, che con i quali sono ancora in giro, uno su tutti Eric Clapton e poi a seguire subito Stevie Winwood, per dire due nomi a caso. E quello che ci andiamo ad ascoltare è una particolarità, perché all'inizio degli anni 60 molti bluesmen americani venivano in Gran Bretagna e qualcuno anche in Europa. Però arrivavano da soli, per risparmiare naturalmente, e si appoggiavano come band di supporto a band britanniche. Così abbiamo avuto album con musicisti blues, con gli Animals, con gli Yardbirds, e qui appunto siamo con un grande bluesman che era Sonny Boy Williamson II, insieme agli Yardbirds. Loro fecero diversi tour appunto in Gran Bretagna, dal quale fu tratto anche un album per loro conto, diciamo così. Ma qui i due brani che ci andremo ad ascoltare sono inseriti all'interno del First Rhythm and Blues Festival in UK. Naturalmente gli Yardbirds in quell'occasione erano senza Keith Relf, che è il loro cantante, perché appunto ci pensava Sonny Boy Williamson, lo ripeto, due, perché ci sono due Sonny Boy Williamson nella storia del blues. Questo era il secondo, dicevo, due brani, perché il primo si vede che si erano dimenticati di accendere il registratore, è praticamente la parte finale di un brano che si chiama Slow Walk, e il secondo invece si chiama Highway 69. Niente paura, sono 4 minuti in tutto. Sonny Boy Williamson and the Yardbirds, con Eric Clapton naturalmente alla chitarra, e il tutto registrato il 28 febbraio del 1964 in quel di Birmingham. Attenzione, avvertenza agli utenti, la registrazione è quella che è. Down, what my Chiedo scusa, a volte do per scontato cose che invece non lo sono. Ho dimenticato prima di dire che Sonny Boy Williamson the Two, come del resto anche il primo, era un cantante e armonicista, naturalmente di colore, naturalmente grande bluesman, che insieme agli Yardbirds ci ha fatto ascoltare questa Slow Walk Highway 69, che praticamente fanno un brano e mezzo, come vi dicevo prima, il tutto registrato al primo Festival Rhythm and Blues britannico il 28 febbraio del 1964. E naturalmente Sonny Boy Williamson e gli altri suoi colleghi americani influenzarono molti musicisti, molti ragazzi britannici, e uno di questi veniva da Nottingham e nel 1966 formò una band che si chiama tuttora Ten Years After. Lui si chiamava Alvin Lee, ma purtroppo lui non c'è più. Ten Years After sono andate avanti senza di lui anche dopo che lui lasciò la band. Comunque il tutto è per presentare, diciamo così, questo album doppio molto bello che si chiama Live the Fillmore East, ed è un doppio album, come vi dicevo, che è stato registrato nel 1970, il 28 febbraio naturalmente, ma è stato pubblicato solamente nel 2001. Ci andiamo ad ascoltare quello che è stato il primo brano che io ho ascoltato dai Ten Years After, che ebbero un grande successo a Woodstock, lo sapete, con I'm Going Home. Comprai un singolo con i miei soldini quando ero proprio piccolo, quando ero bambino, oserei dire. E stranissimo, perché da una parte aveva Love Like a Man, che durava in studio, registrato in studio, durava 3 minuti e girava a 45 giri. Sul retro, che girava a 33 giri, c'era lo stesso brano che durava quasi 9 minuti, ed è questo che ci andiamo ad ascoltare, perché fu proprio registrato al Fillmore East il 28 febbraio del 1970, Ten Years After, Love Like a Man. Thank you. This is a new thing called Love Like a Man. Yeah. Per molto tempo Alvin Lee, chitarrista e cantante di questi Ten Years After, fu definito la chitarra più veloce del West, e in brani come I'm Going Home o questa Love Like a Man lo dimostrava ampiamente. Il tutto tratto da un album che si chiama Live at Fillmore East, naturalmente New York City, e registrato il 28 febbraio del 1970. 10 anni dopo, 1980, sempre 28 febbraio, cambiamo radicalmente tipo di musica, approccio musicale. Siamo a Preston, Gran Bretagna. In scena sono quattro ragazzi che formavano una delle mie band preferite in assoluto. Si chiamano tuttora Joy Division, nel senso che non smetteranno mai di essere Joy Division. Purtroppo invece finirono nel 1980, quando Ian Curtis, il cantante, pensò bene di suicidarsi, rovinando una carriera che sembrava veramente luminosa. Hanno fatto solamente due album in studio, più una serie di album live che sono usciti postumi, ma anche il secondo album in studio, che si chiama Closer, uscì postumo qualche mese dopo la morte di Ian Curtis. Ci andiamo ad ascoltare questa registrazione effettuata al Warehouse di Preston, appunto in Gran Bretagna. Era il 28 febbraio del 1980. Ci andiamo ad ascoltare con questo fantastico pezzo che si chiama Transmission. Questi tre agitatissimi, oramai ex ragazzi, arrivano dall'Irlanda del Nord e dal 1992 si fanno chiamare Ash, una delle migliori band inglesi. Pensate che il loro album di debutto, che si chiama 1977, anche se in realtà è stato poi pubblicato nel 1996, era appunto perché si rifacevano molto a quell'epoca, è considerato, era perché ormai non esiste più, era considerato dal New Musical Express uno dei migliori 500 album di tutti i tempi, ed è un bel andare per una band appunto che all'era era giovanissima e si chiamava tuttora, come si chiama tuttora, Ash. Live on Mars è stato registrato alla Storia di Londra il 28 febbraio del 1997 e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Innocent Smile. Qualcosa di italiano finalmente, anche se in realtà è cantato in inglese. La band che ci andiamo ad ascoltare, la conoscerete tutti senza indugio, senza problemi, si chiamano Gang. I due fratelli Severini l'hanno fondata nel 1984 e sono ancora lì in giro a cantare le loro canzoni molto politicizzate e anche molto belle in molti casi. I primi tre album della Gang furono diciamo registrati sulla scia del punk inglese, diciamo pure che erano molto molto molto influenzati dai Clash. Poi dal 91 con Le Radici e le Ali hanno cambiato direzione musicale e secondo me peggiorato, ma questa è un'opinione personale, perché sono praticamente diventati un cantautore con una band annessa, ma questo è un discorso, lo ripeto, molto personale. Hanno fatto diversi album live, quasi tutti autoprodotti o da loro stessi o tramite crowdfunding. E quello che ci andiamo ad ascoltare si chiama Reunion, perché è stato registrato in occasione del 25esimo anniversario del loro album d'esordio, che si chiamava appunto Tribes Union. Qui è Reunion perché lo rifanno, la rifanno praticamente tutto. Fu un concerto come ai vecchi tempi, tutti brani in inglese, tre cover di gruppi punk, fra cui anche Steve Little Fingers, e niente, iniziava con questo brano che ci andiamo ad ascoltare, registrato all'Extra Alternative Club di Recanati il 28 febbraio del 2009, e il brano che vi propongo è proprio quello che dà il titolo a tutto l'album di studio, si chiama Rumble Beat, loro sono Gang. Oh! We are the voice that come through the edges to remember not to surrender. Tell your lies, tell your hair, but call me with this rumble. So hard to read for our health. Let's catch your land. On you. Grandi come sempre questi Gang, Rumble Beat, il brano che ci siamo ascoltati da Tribes Reunion, che è il l'album dal quale è tratto appunto questo, questo Rumble Beat, tutto registrato a Recanati il 28 febbraio del 2009. Molto velocemente, la sera del 28 febbraio 2015, allo Stone Pony di New Jersey, di Asbury Park, New Jersey, Southside Johnny and Asbury Jukes omaggiarono il loro amico, nonché mentore, oserei dire, Bruce Springsteen, con una serata tutta di canzoni di Bruce Springsteen. Quattro di queste furono pubblicate in un 12 pollici in vinile in occasione del Record Store Day del 2017, ed è una cosa molto interessante, diciamo. Southside Johnny è una delle colonne portanti del New Jersey Sound, ma spero lo conosciate anche e non solo attraverso le mie trasmissioni. Hanno fatto molti album dal vivo e saranno a Ferrara, questo è molto interessante, il 7 luglio prossimo nell'ambito del Comfort Festival. Vedremo di non farci mangiare delle zanzare. Ci andiamo ad ascoltare naturalmente un brano di Bruce Springsteen, Southside Johnny and the Asbury Jukes, 28 febbraio 2015, Murder Incorporated. Southside Johnny and the Brew Jukes nella loro versione di Mother Incorporated, era il 28 febbraio del 2015. Molto velocemente andiamo a concludere la trasmissione con la novità che vi propongo che vi ho proposto oramai quest'oggi, pochi secondi purtroppo. Sono Everclear con il loro album che si chiama Live The Whiskey A Go Go. Velocissimamente però vi ricordo che vi siete ascoltati 2 ore di musica live da Città Fujiko Live Club, questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì su Radio Città Fujiko, scusate, 103.1 MHz di modulazione di frequenza. Vi lascio in compagnia degli Everclear. Ciao a tutti da Nevio, ci sentiamo mercoledì prossimo. This is called Strawberry. Never been here, never coming back. Never wanna think about the things that happened today. Wanna lay down on the warm ground. Think I'm gonna need a little time to myself. Don't fall down now. You'll never get up. Don't fall down now. Fall down now. Don't fall down now. You will never get up. Don't fall down. Yeah.